Sempre in agenda di un altro appuntamento. Pamela, un po' di tempo che non ci vediamo, vedo mi qua siete lo spirito mancate, è lo stesso. Mancate. Sì, sì, sì. Anche tu ci sei mancata, va. Ma comunque, insomma, stai in giro e segui varie iniziative, sì, tra sì. cui questa è un'assemblea che si terrà il 6 aprile, frutto sì. di un'altra assemblea che si è tenuta prima. Sì, allora sostanzialmente di un percorso. Di un percorso, esatto, è un momento di discussione che si iscrive appunto in un percorso. L'assemblea è domani alle 17:30 al Dipartimento di Fisica all'aula Maiorana all'Università La Sapienza. È la seconda assemblea che questo coordinamento di donne che nasce sulla contro la proposta di legge Tarzia, poi allargato diciamo a diversi contenuti, alla necessità appunto di come dire portare, no, dei momenti di confronto e di mobilitazione proprio appunto su tutta una serie di livelli, ha lanciato un percorso, ricordo anche insomma la street parade di dell'8 marzo sempre insomma a nostra firma, e così come anche appunto l'assemblea che c'è stata 2 settimane fa alla sempre alla Sapienza. I contenuti sono sostanzialmente, diciamo, stanno sostanzialmente su 3 livelli: la necessità di confrontarsi sulle questioni inerenti la violenza contro le donne, soprattutto perché in questo percorso, comunque lo ricordo, ci sono anche alcuni centri anti-violenza. Poi insomma la necessità anche di discutere di questa consegna delle firme che sono state raccolte contro appunto la proposta di legge Tarzia, contro la privatizzazione dei consultori, perché ovviamente sono state raccolte e ovviamente insomma andranno in qualche modo diciamo così, andranno consegnate ai signori del bastoncino più corto a chi no. ma l'ideale sarebbe andare tutte a consegnarle, e ribadendo appunto il fatto che comunque le donne non vogliono che gli venga tolto anche l'ultimo presidio diciamo che si occupa, che tutela la salute della donna stessa. Quindi insomma l'ideale sarebbe veramente che tutte potessero essere in quella piazza quando appunto andremo a consegnare le firme. E poi diciamo ovviamente è un'assemblea che vuole lanciare comunque una mobilitazione futura, anche perché ci sono diciamo delle date interessanti che si potrebbero intercettare, e anche perché appunto è importante insomma anche provare a fare delle cose con lo spirito che un po' ha contraddistinto questo coordinamento, ovvero cercando un po' di andare oltre quelle che sono poi le dicotomie che a volte, no, vengono proposte, per cui ci sono le donne buone, ci sono le donne cattive, che ultimamente l'abbiamo sentita e tutte queste cose qui, e invece fine. Dicendo che ci sono anche i contenuti, quindi ci sono i diritti delle donne, ci sono c'è il welfare negato alle donne, c'è il lavoro appunto altrettanto insomma negato alle donne, tutte le questioni inerenti la precarietà, l'impossibilità di essere madri e lavoratrici. E quindi diciamo noi quello che vorremmo fare è provare appunto ad andare oltre, riportando in gioco tutti questi contenuti, e ci piacerebbe discuterne con quante più donne possibile. E quindi l'appuntamento è all'università, sì. Dove avete tenuto anche l'altra assemblea, sì. Ripetiamo il giorno e ora e sì, luogo. Domani, ecco. 6 aprile alle 17:30, aula Maiorana al Dipartimento di Fisica presso la città universitaria. Va bene, allora noi ci ascoltiamo a questo punto un po' di musica, meditate donne, meditate. mobilitate soprattutto, e poi continuiamo con l'agenda. Ciao, a fra poco.